amplificati la mano, frate. Sì, lascerò tecnicela. Perché dovresti fare un interruttore dietro che stacca, perché magari rimane in corrente lo stesso, capito? Ci sentiamo, mi ha fatto piacere anche a me, ci sentiamo Fabio, buonanotte.